Il torrente e il fiume, da favole, di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Un torrentaccio rapido e sonante, precipitando al basso, empie del suo fracasso le rive e la campagna circostante. Fuggì alle genti dalla furibonda velocità dell'onda, quando ecco un tal che dai ladri fuggiva, fermossi sulla riva. Come passar? Esita un po', ma visto che i ladri corron sempre per di qua, tentò, passò, per il rumor che fa il torrentaccio non è poi sì tristo, anzi è sì buono che il furor dell'onda i ladri non fermò, l'altro a correre ancor finché alla sponda d'un bel fiume arrivò. Questo era proprio un fiume maestoso, sereno come un bel sogno d'estate, non rupi a picco, in grate, ma un passo limpidissimo, sabbioso. Col suo cavallo il buon viaggiatore fuggi i ladri, ma il guado è traditore, beve il cavallo, beve il cavaliere, e in fondo a Stige vanno entrambi a bere. E vanno entrambi a bere in Acheronte e in acque più lontane, finché abbaia giammai ti morde il cane, è l'acqua cheta che corrode il ponte. Fine della favola, il torrente e il fiume. Questa registrazione è di dominio pubblico.